Hey, guitar. Like that. Oh! Oh-oh! Original Bolaji in the building as a funk press combination. Ladies and gentlemen, a tutta la gente che sta pensando nero oggi, Original Bolaji ve lo dice. Tirate sulle mani, già domani, già domani. Tira sulle mani e già domani. Tira sulle mani e già domani. Lascia stare, non ci pensare. Tira sulle mani, non fa più male. Tira sulle mani e già domani. Tira sulle mani e già domani. Lascia stare, non ci pensare. Tira sulle mani, non fa più male. Tira sulle mani, oggi è un giorno migliore. Positivo, sotto il sole. Resto fresco, come un fiore. Vado liscio, pace, amore. Zero scazzi, zero guerre tra i palazzi. Che cosa ti incazzi in un mondo di pazzi? Raccogli i pezzi, alza il volume. Tutto scorre come un fiume. Sale la pressione, non ci pensare. Cancella tutto, tutto da rifare. Il mondo è un mare con tanti pesci. Evita gli squali e vedi che ne esci. C'è una vita che va vissuta. Basta trovare la via d'uscita. C'è un sole che sorge e dopo muore. Ma domani c'è un altro sole. Tira sulle mani e già domani. Tira sulle mani e già domani. Lascia stare, non ci pensare. Tira sulle mani, non fa più male. Tira sulle mani e già domani. Tira sulle mani e già domani. Lascia stare, non ci pensare. Tira sulle mani, non fa più male. Tira sulle mani. Tira sulle mani. Tira sulle mani. Tira sulle mani. Tira sulle mani in alto per il cielo terzo. Tira sulle mani che esploriamo l'universo. Tira sulle mani anche se adesso sei in verso. Tira sulle mani e vedrai che c'è un mezzo. Un modo, un amico, un'amica. Tira sulle mani che non siamo più in fila. Tira sulle mani e corri sempre più dritto. Vedrai se stai tranquillo, non c'è conflitto. Tira sulle mani e guarda dentro te stesso. Pensa se hai smesso, guarda che non devi avere sempre successo. Pensa che il ritmo è questo e devi farlo per te. Vuoi sapere perché? Perché c'è una vita che va vissuta. Basta trovare la via d'uscita. C'è un sole che sorge e dopo muore. Ma domani c'è un altro sole. Tira sulle mani e già domani. Tira sulle mani e già domani. Lascia stare, non ci pensare. Tira sulle mani, non fa più male. Tira sulle mani e già domani. Tira sulle mani e già domani. Lascia stare, non ci pensare. Tira sulle mani, non fa più male. Tira sulle mani. Tira sulle mani. Tira sulle mani. Tira sulle mani. Penso alle tue mani che sfioravano le mie. Se penso alle poesie che non ti ho mai scritto. Se penso a te mi sento perso. Dentro il mio universo è immerso, sommerso. Tira sulle mani che la vita è una sola. Tira sulle mani che il tempo vola. Tutto finisce, si consuma. Ma quando arriva l'alba porta via la luna. Tira sulle mani e già domani. Tira sulle mani e già domani. Lascia stare, non ci pensare. Tira sulle mani, non fa più male. Tira sulle mani e già domani. Tira sulle mani e già domani. Lascia stare, non ci pensare. Tira sulle mani, non fa più male.